sentiamo dopo al limite. Ehi, appetito, cosa state combinando nel silenzio assoluto? Come nel silenzio assoluto? Non c'è nessuno sul 10. C'erano lì in Porto Torres, l'ho sentito, c'era Claudio che stava chiacchierando con Porto Torres, che loro stanno sul 12, Porto Torres, e niente, quindi poi sono entrato io un attimino da macchina a rompergli le scatole, che stavo provando un microfono, e adesso sono venuto a casa e mi stavo vedendo un attimino, perché volevo sentire già un po' come usciva con un nuovo apparecchio, che invece poi non ho sentito, e allora ho girato questo, ho sentito anche il bip e sono entrato a salutarti. Va bene, ti ringrazio. Cioè, è lo stesso segnale di Claudio, uguale identico. Qui 9 più 30, sarà Radio 5. Va bene, ti auguro appetito, ci sentiamo più tardi, dai. Ci sentiamo qua più tardi, dopo cena, facciamo, se ce la facciamo, che sono un po' di giorni che non riesco nemmeno a farmi una chiacchierata, ci facciamo un'oretta, ma la faccio qua, una chiacchieratina, dai. Ci sentiamo dopo. Via, a più tardi allora. Attenzione, Antonello, Barracuda. Eia, un secondino arrivo, aspetta che giro le fettine che stanno friggendo, arrivo subito. Cappa, buona girata di fettine, a te. Eccomi che ci è venuto in contatto e ho messo le altre fettine a friggere. Buonasera Gianni, avanti. Buonasera Antonè. E dove ti trovi? Sulla Busi, cambio. Ah, allora stai rientrando a casa? Cappa. E come mai in queste zone? A fare spese, a compere? Come sta mancando di segnale, Antonè? Guarda adesso, sto mancando? Adesso è a posto, stavo dicendo, non hai questa zona, perché stavo accompagnando il bambino a casa della mia ex moglie, capito? Ah ecco, allora c'hai giustamente le tue faccende, già va bene, ho sentito l'avvocato Antonio Grotte, buonasera. Buonasera a lei, è tipo fuori della ruota. Ecco, quindi siamo in due, anche in tre con te. Io ci ho venuto i contatti che sto preparando il mangio e via, e mi devo stare ogni pochi minuti e mollare la portante. Fai bene. Antonio Grotte. Giuseppe Leoncino. Mi scusi. Non ti copio. No, non dirò avermi copiato, No, ho detto, come dire, non ti copio. Guarda come sono in BM, Otto, come sto arrivando? Dove sei? Via Budapest, su via delle astronauti. Su. Ah, via Budapest. Gli astronauti. Cappa. Vabbè, il segnale è vicino, no? Si vuole abbondanze. E vabbè che c'è qualcuno che sta mettendo portante, capito? E dunque, tutto rientro a casa, abbiamo fatto il dovere, abbiamo accompagnato il bambino e adesso ce ne rientriamo a casa. Cosa non sentono con te? Vorresti. E vabbè, lasciali fare, sono peggio. Attenzione Barracuda. Sì, avanti, ti sento un po' scoglionato. No, sono comodamente sdraiato in 144, in 144. Ho capito, salutamela. Piacevolmente sdraiato sul letto, cosa ti servito? Non sei con la tua signora? Negativo. Ah, allora salutiamo lo stesso, dai. E niente di particolare, tutto lì. Niente di niente. Oh, nulla. Meno che hanno fatto del 10 e si è spento? Non lo so, si è spento. Non è più ripopolata come prima, capita, abbastanza silenziosa. Ogni tanto qualche superstite ci fa vivo. No, negativo, non mi è sembrato, almeno quando entro io trovo sempre gente. Quello già è vero. Scusami un attimo, vado a girare le fettine. Antonio, volevo dire, tra pochi secondi vado a mangiare e ti saluto. Ascolta, stanotte o più tardi, dai, ci sei per qualche così eventuale chiacchierata, sai, qualcosa del genere. Come al solito, qua sul canale 10. Allora, perfetto, non hai impegni stasera? Devono vedere degli amici a cena, quindi ti sto aspettando e sono qua che sono buttato sul letto, ma tra un po' devo andare anch'io a aiutare a preparare, quantomeno ad apparecchiare, dai. Ho capito, vabbè, poi dopo cena, se hai voglia, fai un salto, una chiamata, io già rimango in ascolto, dai. Ma dai, al sbalzo come sempre ma ci sarò. Perfetto, va benissimo, dai, se poi hai bisogno di compagnia già sono qua sul 10, ci siamo più tardi, dai, mezzanotte, l'una, le due, le tre, non è un problema, domani già è libera la giornata. Va bene, ti auguro buon proseguimento di serata e buon divertimento. A più tardi, Antu. Ci mancherò, ciao caro. Leoncino, cambio. No, è Gianni che pare, Gianni Chiaramonti, che l'avevo fatto qua. Gianni, sì. No, stavo facendo l'appello, ci sono lì. Certo che ci sono. Però siamo sempre in tre, anche su 10. Vabbè, dai, meglio, come si dice, troppa gente, bella festa, vuol dire che siamo gente seria qua, a quest'ora non c'è nessuno, tutti che mangiano, io ho già mangiato, e a voi già. Anche io ho mangiato, le uova la coppa, oggi, leggero. No, io ho già mangiato, non pesante neanche io, solo che ho la bocca dolce, ho voglia di cioccolato. Non ho bisogno dell'affetto, chi mangia cioccolato c'è che ha bisogno dell'affetto. Sarà così, l'ho già sentita la cosa, sarà così, ma non so, avanti Gianni di Chiaramonti. Cosa c'è? anche a me, adesso è a 3. Ma stasera era molto alto, c'avevo molto alto, 7 mi pare, 5-6. E quindi a volte c'è di segnale e ti ricordo. Adesso lo metto a zero e uso quello dell'apparato, vediamo un po' se ti piace. questo è al zero, adesso attacco quello, quello del, dell'apparato. Prova, prova, prova, prova, prova. Come va? Come va? Fabri. Una varia di ripetizioni. Ecco. Avanti. Va ben sentiti il grotte. Ciao Antonio, ben sentito. Poi lo dico. Ciao Giannini. Ciao Fabri. Ben bene. A Martorito l'abbiamo questo microfono. No, sì, già va bene, già va bene. Se no però secondo me c'è un potenziometro che parte un pochettino su, secondo me ha qualche problemino. Ma quelli di fare una fusa, dentro ci sono delle potenziometri che se li rimetti, quel potenziometro fa una fila più forte. Io posso dire una cosa, se no se provano di inserirmi, forse non mi troverà concorde, non sarà concorde con i più piani. È un microfono che costa poco per quello che realmente può dare. Progettualmente è un buon microfono, il problema è che poi è fatto di materiali abbastanza scadenti. Sono d'accordo, quello che ho detto io oggi, già una cinese, hai capito, però lì è stato copiato qualche progetto e fatto in Cina, però il microfono va bene. Io questo qua ce l'ho fatto anche, se devo dire la verità non avevo altri problemi. Può essere fatto anche in Cina, va? In Cina si fanno la maggior parte delle cose, senza che gli elicotteri fanno in Cina. Di valore cinese si vende anche quello che ha, che cavolo che ha Marsiglia, via, quello lì mi ha detto che è tondo, sia ben chiaro che anche questi sono fatti in Cina, perché tutti gli elicotteri e le cose sono tutti fabbricati in Cina. Adesso hai detto che hai dovuto cambiare tutti i cavetti o comunque che hai dovuto ricablare perché si staccavano. Io sto dicendo che non è, secondo me è fatto con dei materiali importanti e ha delle saldature all'interno che sono fatte un po' lateralmente. Hai ragione, tutte le cose vengono fatte in Cina, però sia la maglietta consiste di raccatta, mi chiamano così, quindi falsa che è vero. Il problema è che il vero però devono rispettare uno standard che sicuramente con la maglietta piratata come col microfono non rispetta. Per 29 euro guarda ce ne avanza, però gli devi fare tutta una serie di accorgimenti al pari di quelli che gli hai fatto tu. Vabbè, io mi sono appintato e piano piano uno a uno glielo cambiato. È un casino comunque, ci si è fatto una piano. Nel DM1000, nel Proxel invece sono più grossi, nel Proxel rimangono un po' più grossi e hanno messo dei cavetti che non si spettano facilmente. Non è la prima cosa, Proxel DM1000? No, il DM1000 era praticamente, sì, sono uguali praticamente, era il primo modello e poi Proxel, diciamo, non ho fatto nel secondo tempo, capito? Ma perché il mio si chiama Proxel DM1000, poi non so, magari non lo so com'era. E adesso ci sono scritta Proxel grande, davanti. Ma no, allora ti ripeto, è un buon microfono, l'unica cosa che come lo apri, vedi, le saldature che sono fatte un po' così, e realmente a richiuderlo ha un po' di problemi, i trimerini, se ti occupi di tanto, si spazzano. Cioè, progettualmente ti ripeto, è un microfono che con 29 euro non compri niente, a più non lo distribuiamoci se compri un microfono applicato con esso. Però soprattutto c'è una cosa, c'è un cordone che è morbidissimo, è vero, cioè non è così che ti tira via l'apparato, però sicuramente andrebbe ricablato molto meno. Sì, in effetti noi sono spersi delle piccolette, ma comunque in linea di massima il microfono va bene. Ciao Luca. Quello, quel microfono lì ce l'ho, aspetta un attimino, ne hanno i più 4, ho arrivato tu già, se non sbaglio, con il cavo mobile. È l'ultimo, ti ripeto, è un microfono che quindi un po' forte prezzo rispetto a quello che mi costa, questa qualità prezzo è ottimo, perché io ho comprato quello della ZT, verificato e non di questo manco il pezzo, assolutamente le cose di ZT costa anche il doppio. Effetti, quello della ZT è un giocattolo proprio. No, infatti, il prezzo è lo stesso, capito? Per farmi il controllo a vedere se ce l'ho qualche trimestre, allora non c'è problema. Potrei avere anche tutto circuito. No, a me è quello che serve, perché io ho paura che se vado a cercarli non li trovo uguali identici, capito? Così con le due vittine per poi avvitarlo, anche perché voglio dire, qui è a posto, insomma, mi è venuto il dubbio che potrebbe avere quell'unico qualche problema, mi è venuto il dubbio ma non ne sono sicuro. Però infatti volevo dire, c'è anche Grodo, c'era uno di quei trimestri, sono 10 km sono. Se ce l'hai me lo prendo, perché così la prossima volta che lo apro gli cambio i fili e gli cambio anche quello di quella sicurezza, anche se magari va bene. No, cioè ti serve uno di quei trim? Sì, uno di quei trim è da 10 km. Dove ti ho? No, non mi ricordo. Sono quelli che trovi di regolazione. Ma non si, quanti ne vuoi se ne do? Sono da 10 km, non c'è problema. No, ma aspetta, 10 km sono quelli proprio di quel microfono, perché Boris ha le due vittime a fissarlo, capito? E quindi, se non sbaglio, quello, vabbè, quello è il trimerini, da uno era tre figli, non mi ricordo come sono. Non c'è problema. Sono molto basso, dicevi solo questo, perché sto vedendo una gran pena. Ah, già si è cercato. Avanti, Luciano, non è interessato, ciao. Ciao a tutti di nuovo. Ciao. Ci voglio un attimo, siamo qua. E ci sono i fuochi all'alghero, Gianni. Questo la sai tu? No, non lo so se. Che notte. Che palle, le palle. Aspetta un attimo. Ok. Avanti. Allora tu. Allora, stavo dicendo, Fabrizio, ricordami, dove mi hai preso l'antenna, quella che ti ha consigliato già? Su internet, vai, ma per internet era ordine. Ma quanto che l'hai presa? 39? No, 39 è per gli altri, mi sembra stata 120 euro, per la mia non sei a migliore. 39? Non me lo ricordo, credo di sì, però non me lo ricordo esattamente, perché mi sembra di sì, capito? Mi sembra di sì. Ma perché sto usando la Grand Play? Sono la Grand Play perché qua in via sono dall'altra parte della città, Verso dove? Dove? Perché la stanno creando problemi di rumorosità la cosa, la carico. Adesso lo so che sto provando questa Gran Play qua. E guarda che ce l'ho una Ringo qui sul terrazzo. Io adesso ne ho due, perché ne ho tolto una, stava creando problemi di rumorosità, ma è normale. Perché sul palo fa una specie di scroppo quando c'è il vento, e sembrava il filo che sbattesse sul palo, invece era proprio il rumore della gamba che sta sul palo, faceva e per il giorno mi faceva per lieto vivere o comunque ho cercato, adesso vediamo dove siamo girando. Quieto vive. C'è un lieto, va bene. Quando parte alla cosa, alla veloce si dice quieto, la cosa sarà sempre di più, quieto. Così è, ma io non sono alla veloce, lo battisco. Per un uomo. Non nemmeno. Ti manca, caro. Ah, allora si parla come un'altra cosa, anche al monte dicono così, quieto vivere. Quieto vivere. Ma è italiano, non è che dicono al monte, è italiano. In italiano qualche dio dicono lieto vivere. Gio Luca, come si dice, quieto vivere o lieto vivere? Quieto vivere! No, che lì in Canada, anche in Canada si parla la stessa lingua. Allora, per dirlo tutto, dimmi. Aspetta, mi riprenderà. Voleva dire? Oh, vabbè, è che c'è il bambino che stava giocando, ascolta. Allora, per dirlo tutto qui, che sia chiaro, si chiama Mighty Game, non Michi Game. Pittina, ditelo così che lo si sente e lo correggiamo, adesso lo sono sentito più di una persona. se dobbiamo iniziare a correggere, correggiamo tutto. Comunque assolutamente, perché evidentemente non si conosce l'abbreviazione della parola, del termine. Mic gain, che master, che poi mic, micro, deriva da microphone, microphone gain. Ok, ok. Questo lo sapevo, se c'è un mic gain. Mic gain, lo sai chi lo dice? No, si dice mic gain, come dice Fabrizio. Non lo sapevo tu, sì. Molte volte mi è stata Mick Gain. Allora, vedete, io ho voluto fare il diplomatico, no? Quando in un gruppo di lavoro vuoi prendere una persona e non vuoi puntargli il dito, dici, beh, so che sta succedendo questo, da oggi non voglio più che succeda questo, perché non va bene. E il colpevole lo sente, invece voi avete puntato il dito e non va bene. Doppio, la voce calda della frequenza. Oddio. andando senza benzina, motore spento. Motore spento. Era motore spento. Motore spento non si funziona, non servo certo, non servo freno. A conto. Non lo so, ma con la macchina se funziona, non lo so, come sia. In certe macchine si è vero. E forse non è. Fatti, la carta, quella vecchio tipo ce l'ha. Ma no, non ha niente, perché io tipo servo freno no sicuramente, il problema è la servo sterzo. Sì, ma se non ce l'hai quello deve funzionare, no? Ma se mi chiede che magari non ce l'ha. Della nuca, Luca, cosa stai guardando a nuca? Io l'ho chiamata la macchina e ho detto Giuseppe che c'è la luce spenta e c'è tutto aspetta che il motore sta cambiando il fuoco. Amareddu, eh? Il baracchino acceso, capito? Poi c'è la retta, no? Si lamenta, Oh, a folleggiare ce lo faccio anch'io a volte, ma... sulla buddi per dire quando non ci sono macchine e cose vedo un attimo che tu folleggi un pezzo ma col motore acceso beh, il motore deve essere sempre acceso perché se il capo si spegne il motore non ti funziona ti va bene ma sai che me l'ha fatto una volta allora frenare si è fatto il pedale duro duro. Cazzo, stavo attraversando questo tipo, vado a frenare, cazzo, non mi frenava, mi sono cagato all'ultimo momento a peso. E cos'era? Non lo so, poi ho pompato, forse c'è l'aria, non lo so. Ho pompato un po' col pedale ed è tornato tranquillo, normale. Cazzo, mi si è gubilato un raio. Oh già! Ecco, che mi avevo fatto di quelle ricotta, proprio andava lì, ho fatto l'ho caricata, non la mia, senti. Grana sul motorino, quello lì si è spostato l'ingranaggio e si sta slittando. Non si spegne. Vedi, non ce la fa. Si fa salire, non ce la fa. Praticamente prende l'aria al comando, cioè nel controllo del telecomando. Anche il mio è così, prende un po' di velocità però non ce la fa salire. Si spegne, vedi? Un veicolo volante perché non so come definirlo praticamente risulta circolare, io pensavo infatti che fosse tipo UFO che volasse, invece si solleva dritto, eccetera eccetera, che c'ha 2-4 eliche e vola dritto, sale dritto e sale in alto. C'ha le luci tutte quante attorno, io pensavo che volasse tipo UFO, invece no. E dice che ha fatto un bel di successo, che anche la Canale 5 l'hanno chiamato per far vedere questo modello nuovo che è inventato. E che è indefinito, indefinibile, perché non si capisce se è un aereo, un elicottero, se è un UFO, che cosa sia, è tipo una navicella rimane là. Gava gava, che si scatta nel quello quando si blocca, che si blocca il motore, ma il problema era scoppio elettrico. Elettrico mi pare che fosse, forse l'elettrico sì. Ma qualche batteria era 7 volt. Di gatto, vedi, tu avresti dovuto fare il modellista. Solo quello mi manca a te. Ma sai quella tipologia nel fare le cose che serve in quel tipo di... Lo so, c'è un periodo che volevo iniziare il modellismo navale e poi meno male ho mollato perché alla fine la giornata è fatta di 24 ore. Poi già lo so, quando inizio una cosa se non la prendo la finisco e mi trovo lì 72 ore sempre lavorando fisso e poi mi ci portano. Io ho finito tardi, sono qua che sto baracchinando l'educazione. Oh. A potendini vuol dire che non sono ospiti ben accetti. Che parlo della bocca mia, come? Su YouTube c'era una traduzione sul ballo duro, quello che fa oi, quello lì, e c'era praticamente le parole, però erano parole molto spinte, capito? Diceva slacciati la cintura, vabbè, però è ripetibile quello che c'era scritto. Elisabetta Canalis ha parlato con un stato vestito in America in un giorno c'era di puttavura. Oh. Vabbè, già se ne tratta per non essere niente nessuno, neanche troppo, capito? Però un giorno è durato. E vuole sfondare in America prima con Cuni e adesso chissà se farà un'altra americana. Se prendi la Brai. E per gli arachidi sul gacchio di Ma. Era più arachigo. Sicuramente. E lui, fa una cosa. Prendi quell'elicottero e ti dico io come farlo funzionare. Capito Luca? Vabbè, ho sbagliato uguale, lei mi scuserà se io con i nomi sbaglio anche i nomi dei miei figli ogni tanto. Io ce lo divido, mettilo sul libro, se sta ascoltando a Claudio, mettilo sul libro. Funziona. Però. Qui la sale, guarda. Che gli hai cambiato il rumore, te l'ho detto, erano gli ingranaggi che non stavano andando. No, Fabri, ma tu, ho smontato le canne davanti, no? Ci ho attaccato la batteria, l'ho riattaccata, adesso sta andando. Allora, rifaccio i contatti, non si è visto che il filo proprio sono delle cinesterie anche quello. Non va. Questo è un po' strano. Se si durava in 5 minuti, quello che dura, adesso lo carico, comunque ce la sono di botto, ma se l'hai aperto bene la batteria, aspetta. Normale, capito, che per farli pagare così poco, per portare cose, vengono assemblati da personale non specializzato al pari di quello che stavamo dicendo prima, motivo per il quale costano così poco, è la manodopera che non si è capito. E non penso che siano proprio terra a terra, perché queste sono cose da bilanciare, da fare, non è che sia una cosa semplice da pensare. Ma a parte che se ti tiri quelle cose lì, bambini, perché loro sono un paese a dittatura comunista e di conseguenza quindi i comunisti che hanno questo concetto alto del lavoro poi non si rendono conto che la loro dittatura era un po' sfruttamento delle cose minorili, ma proprio per montare queste cose piccole perché hanno le mani piccoline che riescono a tirarle in via a spaccare il mio esito, capito? E vabbè, comunque, nemmeno il mio volo, adesso bisogna che provi a fare la stessa cosa anch'io. Rimonto la carena, se vedo che con quella batteria non va, gli metto l'altra, ripiezzo l'altra. Siete pronti a fare un combattimento? Lasciate il moto della fila. E speriamo che voli, ma non c'è il tempo di divertirsi, capito, dura troppo poco, bro. Bisognerebbe trovare una batteria che dura almeno 20-25 minuti, allora sì che c'è il tanto di divertirti un po', ma questa qui che tu fai due alzate, due voli e non ce ne più. La batteria non c'è un coice. C'è. Aspetta che la prendo, che ce l'ho sopra, ce n'è una smontata. No, basta vedere il coice, si prende una batteria con un amperaggio diverso, maggiore, capito? Però se poi ce la fa caricarla, gli carica batteria. Carica batteria al pari di un bicchiere con cui devi riempire una tamburra, ci mette più tempo, però poi alla fine l'importante è che il voltaggio sarà stesso. No, perché quello mio pure già vola, volare c'è, cioè, vola, gira però non vola, il fatto è quello, si alza appena appena da terra, un pochino là si alza, però prima arrivava si va su fitte oltre, se ti fidavi lo portavi già andava un ben alto. Adesso non vola più. Luca, adesso è a posto. Sono salito. C'è un controllo. Sì. Non so cosa dire. Cos'è la mia cosa della batteria, capito? Io l'ho inventato nel giusta. Non te l'ha attaccata, non lo so. Vabbè, comunque tu quanto prova l'ho pagato la belletta di 60 euro, no 10 euro come hai detto tu, o 20 euro, 60 euro l'ho pagato, anzi, proprio per essere preciso, 58 euro scontato. Tu che l'hai comandato? L'ho comandato, la frequenza è 40 mega, eh. Ascolta una cosa, se lo vuoi far sollevare, lo vuoi un consiglio? Mi raga. Ah, sono due modi, uno apri la finestra e non fai volare, e l'altro ti attacchi a 2,20 e diventa un demonio. Ho capito, siete più tranquillo che tu. Ripeti. Ho detto che uno è aprire la finestra e lo fai volare, e l'altro attaccati a 2,20 e diventa un demonio. Se lo vuoi vedere sollevare, lo faccio da lì. E questo è io della bambina. Vediamo un po'. Mannaggia a voi, cazzo, non lo lasciare, no. Cazzo, salito, guarda, te lo metto, troppo. Cioè, sale, arriva la punta e passare, ma come cosa ne scende? No, non te lo prendo, non controllo delle cose. Dammi che siete grandi per giocare con gli elicotteri, eh. Certo, perché non è mai visto gente grande giocando con gli elicotteri e fa aeromodellismo. Sì, già l'ho visto. Fino a poco tempo fa era proprio il lobby dei grandi, perché costavano talmente tanto che i piccoli certo non se lo potevano permettere. Ah, grosso, c'era un bambino, lo sai, con l'elicottero, tu devi vedere come lo faceva volare. Un bambino che avrà avuto, penso, 13 anni. E... no, un aereo, Fly si chiama. Non lo so se era un polistirolo, non te lo so dire, però ha colorato, E l'ha fatto volare, questo bambino, non so, era bravino anche, il nonno che aveva la passione, capito? Nemmeno il padre, il nonno. Ma ci sono illustre persone, illustri persone, qualsiasi che sono aeromodellisti. Diventa una lama, ma non so cosa vuol dire, non dura di più, che è anche molto difficile fargli il filo, poi gli fa il filo e non perde più quel filo, è una cosa impressionante, e diventa praticamente, ritorna più o meno come le caratteristiche iniziali del disco quando c'è lavorato, capito? Guarda, faccio una domanda specifica, se io devo affidare i coltelli, qualche cosa li posso affidare? Il coltello, guarda, la fine, se devi affidare un coltello, la cosa, se hai già il filo, che è forse il filo, una delle cose principali, prendi, c'è la pietra, quella piccolina, no? Oppure prendi un foglio di carta da 400 con l'olio e tu piano piano sempre in un senso, sempre in un senso, piano piano da una parte, dall'altra, gli fai un filo che è una meraviglia. Oh, si fa con la pietra e l'olio se non sbaglio, no? Sì, con la pietra e l'olio, però subito lo metti, quello, tu lo metti su un piano, metti un foglio di carta da 400, ci metti l'olio e poi piano piano, sempre in un senso, da una parte all'altra, vedi che filo gli fai. Ovviamente se lui è, non ha, cioè che sono diventata quadrata la lama, Stai dicendo carta abrasiva? Sì, carta abrasiva da 400, quella da carrozziere. Ma come segnale, sono più alto io o Fabrizio? Fabrizio. Quanto? E cosa stavate parlando ti passava? Cosa voi stavate cercando? Se eravate voi che stavate parlando, non passavate. Aspetta un attimino, vieni avanti Fabri. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, rubasso. 1, 2, 3, prova. E già? Prova, di nuovo. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, prova. Ti passa di solito, Fabrizio? Chi è che mi stava passando? Nessuno, tu è che passassi. Chissà quanto stava pompando qua. Ah, niente, cosa pompo? Ricordati un'altra cosa, però già lo sai che non mi piace fare il professore, però sappi che ogni volta che studi da impatto praticamente è un calcolo logaritmico, quindi se tu c'hai 100 watt, no? C'hai 100 watt, per aumentare la potenza di 3 dB, devi raddoppiare la potenza. Quando sei aumentato la potenza di 200 watt, devi aumentare altri 3 dB, devi montare a 400, per aumentare altri 3 dB devi aumentare, quanto è 400? 1600, e così via, quindi alla fine se tu riesci in antenna ad avere un impianto giusto e avere 3 dB più in antenna, è come che c'hai 100 watt, per capirci. Capito il grod, Gianni, non passavo? Allora, ragazzi, cercava Gianni, Fabrizio si aspettano, tutti e due, siete fortissimo quanto, perché è uno dei più forti, a parità di watt vi spacca il culo a tutti. Fabrizio, quella cosa la Fabrizio, il 440 adesso? Sì, sempre il 440 io uso. Se non mi faccio 50. Io ottengo sempre quante 20 e 30 watt e poi il resto è modulato, capito? E io invece ho che ci arrivo. Sì, 9,40, poco più di 9,40. Vabbè, oh, Luca, guarda un po', ora. Sì, 9,30 picchi di 40, poi un rumore. Guarda adesso, ora. Qua, molto molto forte, non so la differenza, allora aspetta un attimino, allora aspetta, ok, allora Fabrizio, tra me e Gianni qual è la differenza? Cioè tu attivato stai usando? Adesso sono attaccato, aspetta, sta, adesso due sono lì. In questo momento dici non ti sbagli già che tu di 2 attimo di 9,30 e sei capiti di 40. Aspetta, guarda te lo dimostro Luca, non è che io dica cazzate, guarda sì, 9,40 è fatto, vabbè metti a 10 dai, aspetta. Ci vado anch'io adesso, vai! E ci Vabbè Gianni, vai a differenza. Gianni, arrivi tu più forte, Gianni arriva forte, adesso me lo ricordo, stavo guardando, era 9.30 con picchi positivi quando è attaccato, mi sembra, tu sei 9.50 con picchi positivi, capito, verso 60, tu arrivi forte qua. Ma cosa, Carlo, è favorito alla micidiale? È una cosa micidiale. Cioè Claudio è alto, seppure non passa Claudio, quando c'è con i suoi 50 watt è 9.30, poi ovviamente se attacca arriva anche lui 9.40. Stiamo parlando sempre dei watt normali, dai. Però per cose che io con te ci vogliamo bene, quindi è normale, no? Magari che fa vedere le antenne, è più forte qua, la mappa a tutti, anche lo metto qua là, ammazza. C'è una cosa strana, ma è vera. Dai, Grosso, si sta pensando. Adesso vedrai che adesso che inizia a pompare e arriva quella di sotto e dice mi scusi c'è un altro rumorino, è più forte, ma lei non sente niente, no io non sento niente, in caso tira fuori un pezzo di manganella e glielo spacca in testa. Mi scommesso perché arriva più forte qua, ma poi che arriva, e dove c'è, vabbè, anche Fabrizio ci ha trovato qualche vacco aperto e passa, ciao, picchiata. Non proprio, sì, diciamo c'è una traversa, quindi via Montegrappa, quella zona lì, io guarda, poi c'è un palazzo molto alto, poi Grotte è venuto, ha dato una mano anche a parare un'antenna del cavetri qua, e c'è tutto libero, capito, io sono tutto libero, vedo tutto, non ho nessun ostacolo, dove ti dici l'unico, c'è un palazzo che forse ha un piano in più di me, ma probabilmente con l'antenna sopra la casetta che c'è dell'ascensore lo passo, non ho problemi, infatti io come segnale, io vedo il mare, vedo Porto Conte, vedo Stintino, vedo Fiume Santo, vedo le paleoliche, cioè vedo tutto, capito, dal terrazzo, e non salendo su dove c'è l'antenna, quindi la mia posizione è ottimale per tutti. Sì, sì, ma vabbè, forse male, un palazzo alto, niente male Fabri. Io ho un antennino di 1,5 metri, autocostruito. Ah, io veramente? No, una 5 ottavi. La 5 ottavi tipo la Sirio 2000, quella con la carica trasparente della Intec, mi sembra, adesso mi ricordo, comunque è quella lì, dai. No, sono armato, ma l'avevi già detto. Sì, sì, no, mi va fortissimo qua, mi ci viene. Da non credere, veramente, da non credere. Ma è molto, molto forte. Ripeto, Roberto Barato ha una bella posizione, un'antenna piazzata bene, una buona antenna. Boh, è arrivato in basso. E vabbè, visto, molte volte anche il punto vuol dire tanto. Va bene, già, perché hai detto che mi spoglio, ho fatto cacchio di maglietta, giusto? Il tempo non è il tempo che è brutto, non lasciami in giù, sono già terminati i fuochi. Infatti sono iniziati, no, 10 minuti poi a casa, ma... Sì, e poi trovi tutto il traffico, un casino per andare, come abbiamo fatto un anno, stavamo andando e abbiamo visto i fuochi da lontano. Facendo i fuochi con tutta la fila delle macchine non potevi andare avanti perché c'era la fila. Sì, voi non potete andare in elicottero, no? Davvero? La mattina sono andato io bella grossa e ci è arrivato l'alieno. Il problema è che non manchi la batteria, se no siete fregati. Proprio sono le bambini, è un elicottero, cazzo, ci vuole in testa. Come è capitato più volte, uno passava vicino a casa mia che atterrava lì via Valletta, via Fredo dei Pini, ce l'avevo spesso, come bambini piccolini, ma non so, c'è la gente più grande di me, sempre lì, ogni volta che atterrava era sempre lì. Luca, a me mi affascina molto quello dei carabinieri, lo sto cercando come modellino, se non trovo me lo prendo. Ma tra l'altro non sai dove fanno le atterraggi degli elicotteri, già, a qualche punto, lo sai? Sì. Non sapete dove appena l'elicottero a Sassari. Gonzaga. Vabbè, spesso lo dico, per vederlo proprio in diretta. praticamente, dove ci sono tutti gli uffici, dove fanno le visite mediche per la patente, eccetera, eccetera, tutte queste puttanate qua. Entri lì e puoi anche fermarti e puoi anche entrare dentro la pista senza problemi, capito? Capì che atterra anche a Gonzaga, sono andato io con l'ambulanza a prendere gente a Gonzaga, con l'aereo, con l'elicottero che atterrato lì. Sì, quello sì, quello sì, anche a Gonzaga atterra, però questa è nuova questa pista, ecco, prima atterrava a Gonzaga e in fondo all'ospedale, adesso come linea di massima l'atterraggio viene fatto al lì perché è più vicino all'ospedale, poi è ovvio che atterra anche a Gonzaga, perché una volta lì c'è la pista militare e quindi c'è, è ovvio, no? Luca, chiami. Sì, dimmi, Fabri, ma tu, dimmi. Dovrei arrivarti meglio, dai, ho messo la trantenna. Siamo 30 adesso. Mamma di rocce, no. Va bene, meglio così. Ti sei messo la mano? Negativo, ho rimesso la ringo. Aspetta un attimo, scusate. Ok. Ma non è modo di bloccarlo, di bloccare la storia? Chi, io o lui? E tu bloccare la trantenna che fa rumore, non è modo. Aspetta un attimo. Ora. Riesci a trovare un modo per bloccarla per non farmi fare rumore? No, il problema è che fa rumore sotto, per cui non posso fare più di tanto, capito? Ora. Come fa a fare rumore sotto? Fa effetto campana. E non devo potere l'effetto campana. Evidentemente no. Luca, come sto arrivando adesso? Oh, rubasso. Aspetta. Ola, 1, 2, 3, prova il microfono. 50. Io Fabri gioco adesso. Allora, dai, vai. Ma e tu consigliere, ma come fai cacchio? Boh, io non ti capisco, boh. Guarda adesso, guarda, ora. Allora, bisogna avere che porte Antonio, ma di poco. Ma di quando ci supera Fabrizio? Ora 1, 2, 3, prova adesso con 20 watt, adesso lo porta a 100 watt e ti crepo. Sì, mica pesante, comunque l'aria è più forte di Fabrizio, segnale più forte il tuo alto, quando vai in trasmissione, tutto, vai poco più a 9,50, proprio l'aria che supera lui, però comunque siamo lì, dai, uno segnale anche il tuo alto, Adesso non dovrei essere molto forte, guarda, ho passato tutto. Ora. Sì, adesso guarda i Fabrizio, guarda l'intico. Ecco, mica 600 watt per arrivare come arrivo io con 20 watt, io. Ora. Non ti rendi conto a che livelli siamo? Dai. Ecco, se ne tu io 600 watt, ecco, gli fumo l'antenna a Luca. Io sto uscendo con 20 watt, con quei picchi che ne ha 50, 60, 70, non lo so, ma voglio dire, ne avevi di più di 100, però devo dire bugie. Davvero, ci sono solamente i vicini che stanno sul balcone, così guarda. Ma sai cosa hai fatto? Io ho inchiodato le televisioni a tutti. Ma non penso che fai TV Guai. Sì, gli blocchi il segnale. Veramente? No, adesso non fai più TV, non ti sentono, però gli blocchi il segnale, cioè quando tu pompi troppo, cosa succede? Hai rientro di RF all'interno dell'impianto e quindi gli mandi a puttane il segnale che è digitale, che ha necessità di tutta una serie di fatti che lo sporchi leggermente e blocchi il segnale, capito? Ma ecco. Vabbè, io qua, guarda, mamma mia, quando andavo a 45 era impossibile per me, perché andavo a modulare, frisce su Rai 1, poco su Rai 2, poco su Rai 3, gli altri canali niente, poi siccome qua, vabbè, la storia lunga era spiegati, vabbè, comunque. Qualcuno lo sa, Claudio, mi Claudio lo sa, mi sa tutta la furia, ma per carità, va. No, lasciamo perché siamo qui, mi sa il sangue a testa e divento matto. Sì, che ha un po' matto, già lo sei, meglio che ti calmi, va. Ma poi si chiama Luca Manicomio. Ah, queste cose mi danno fastidio, vabbè. tempo e se capita lo dirò in verticale così capirete un po'. Vabbè, comunque adesso è difficile che ti succeda una cosa del genere, capito? Adesso è difficile, adesso o blocchi il segnale oppure non ne hai problemi. Sì, no, adesso perché io non penso di disturbare qua. Tu conta su 20 famiglie siamo, sono 4, 8, 12, 16, 20 famiglie, su 20 famiglie ne disturbavo solo una. Quanti conti, Fabri? Vabbè, a quel punto te ne potevi anche pagare perché i problemi erano suoi, non erano tuoi. Vabbè, non perché avevano tagliato. Poi aspetta, tagliare il cavo, quello sì. Stava risolverla pacificamente, andavi lì, chiedevi qual era il problema e magari te la cavavi comprandoti un filtro per chi vuoi. Già fatto, l'aveva costruita lì, una specie di coso, di cosa, un pezzo di bachilite, gli ha avuto il cavo, questo cavo che fa quegli spessori TV, no? Quelli che andavano da digitare alla TV, uno di quelli, gli ha fatto una spirale, no? E quando diciamo poi l'ha attenuato, ma il problema era la TV perché era molto vecchia, molto vecchia, gli facevo guarda dietro, cioè sì, cioè, non ho detto niente. Rientra l'audio, ci rientrava nell'audio, pensa giù, perché loro usavano le cuffie e purtroppo mi sentivano dentro le cuffie. E poi, alla fine ho preso, ho staccato tutto, ma per me era impossibile. Io lo metto la posta la mattina e la sera tagliato. Che ti portava? Cos'era? 58? Era 58, se non lo so qua è un casino, questo costa meno da un metro. Non hai preso perché? Poi c'è la regi, aveva fatto Claudio, no? Aveva preso una cassa, la regi 8, doppia cassa. E allora mio, ho preso il regi 213. Questo qua è uno dei migliori però, Attivo, il migliore è il 213, però stiamo parlando di due cose quasi simili. Poi per la calata che puoi avere tu ci puoi mettere anche il 58, ma anche quella che ho io. Sono 33 metri calata, 32-33 metri circa. 33 metri, tu? Ma sei due piani quella casa? Purtroppo ci sono 33 metri qua, perché fa proprio al tetto, non arriva al dito il cavo, dici, beh, ho buttato giù di secco perché la mia, questa nuova antenna, tu contala lì, io c'è una finestra che proprio saranno dall'antenna, spostati verso il tetto, saranno buoni buoni 4-5 metri e poi ci metti via col capo, che fa? Scende, entra nel muro e fa il giro del muro che fa, saranno altre, non saranno 3 metri, 4 metri, vai, poi un'altra curvetta di altri 2 metri, ma ti conto, ci sono 30 minuti metri di capo qua. Molto bravo, bravo, ma conti, solo perché pensavo prima che abitasse il secondo piano. No, io ne ho preso 11 metri e ne avanzano un bel. Sì, io abitavo là, di voltare di su, almeno con 11 metri me ne sarei uscito. Capito? Gamma, ma ti ripeto, molto spesso anche il RG 58 va benissimo, è importante che non carichi, è importante che sia riparato, non c'è problema. Allora, per mettere il 58 devo mettere un tubo, un collugato, quelli gommati, viene infilato dentro nel cavo, allora è più tranquillo. No, l'unico problema è che quando vai a tagliarlo l'RG 8, sembra, cioè l'RG 213 dentro è proprio i fini rame grossi, spessi, del centrale, mentre invece l'RG 8 credo che abbia ancora così fini, no? Cosa vuoi i fini? Salvi del centrale, del polo stallo. RG 8? No, c'è come il tuo. Se c'è la doppia attrice, la doppia carta. Bravo. Allora sì, è così uguale. È così, ma è in coso, la calza come ce l'ha, dorata o argentata? 100. Perché 213 ce l'ha dorata. Vabbè, ma è relativo. Perché stavo guardando la perdita di segnale che hanno, anche. Questo qua ce l'abbiamo io, insomma c'è Claudio, c'è Franco, c'è Natalino, mi sa, adesso mi ricordo che aveva comprato Claudio anche, ma a cui aveva diviso il capo, non mi ricordo a chi. Comunque c'è molto aggetto questo cavo qua. No, per quello. A parte che è una tenuta di calore, che è una cosa micidiale, questo ti fa almeno 40-50 anni. No, sicuramente. No, 40-50 anni no, ma magari anche sì, attenzione, magari anche sì. Però tanto ogni 8 anni conviene cambiare il cavo, è tipo ogni 10-15 anni conviene cambiare. Che bello. Sì. Un attacco al cavo 58, un attacco non un attacco potente io. Magari gli farò un bel lavoretto su un tubo colorato, in modo tale che resista di più al tempo, ecco. Sai, Fonconio. Buonasera a tutti. Sto appena accendendo. E allora, come è appena acceso, puoi anche spegnere per andare a letto, io straccio. Vabbè, lo faccio così, ci sentiamo dopo domani. E fai anche metà prossima settimana, non prima, dai. Bello, metà settimana piove. Sì, è bellissimo. Ui. Oh Gianni, vieni, avete dimenticato Gianni, adesso si è addormentato, eh. No, adesso non sveglio. Io ti posso dire una cosa, c'ho la 58, ho 22 metri di calata, anzi forse 25 metri. C'ho già 8 anni e problemi non ne ho mai avuto e arrivo da tutte le parti. Dopo, a me non mi piacciono quei cavi grossi perché ti spostano tutta la strumentazione e rimango tettari, vabbè via. Da questo punto di vista hai ragione, però sicuramente sei non tanto per un CB, per un radioamatore che sta a guardare anche come sono fatte le saldature, perché ha un minimo di perdita di segnale, sicuramente la cosa cambia. Allora, il problema non è che non vada bene l'RG58, il cavo, devi guardare del cavo, ci sono molte variabili del cavo. E ti ripeto, se tu riesci, allora se c'è una piccola caduta, io ti faccio la prendo, io ho 11, 12, 13, 14 metri forse ho di calata, non di più, e ti posso garantire che il cambiamento l'ho fatto dall'RG 58 al 213, quindi voglio dire anche in una piccola calata io ho notato la differenza. Poi ti ripeto, se tu, la prima cosa che bisogna avere è avere una buona antenna con un buon guadagno, un buon cavo che è la minor dispersione, ma anche mezzo dB, un dB di guadagno, è una cosa impressionante su un impianto di antenna. Mi siete schiacciato, che era Gianni? Via. Sta completamente schiacciato Fabrizio, si comprese molto, è stato solo lui. Avanti Gianni. Se vi siete sovramodulati senza accorgo, avanti Gianni. Non so se dove mi hai sentito. No, non ti ho sentito proprio nulla. E niente, stavo dicendo appunto che io ho preso le giuste precauzioni, ho fatto passare il filo dietro il fluviale, l'ho attaccato al tubo del fluviale con delle fascettone grosse e l'ho fatto scendere così, di modo che non balla, che non si sbatta, eccetera. E poi su l'ho fatto passare in alto, l'ho praticamente messo anche, stavo mettendo l'antenna in un punto, poi ho cambiato idea, però ho lasciato il tassello circolare qualcosa, l'ho fatto passare lì dentro il cavo e poi l'ho tutto bello fissato nel tubo dell'antenna, tutto fatto bene, non ci dovrebbero essere problemi. Perdonami, però non te lo posso far passare già. Non ti offendere, ma è fluviale, non fluviale, fluviale. Ah, vabbè, tu sei cacca. È fluviale, va bene, ok. No, io lo conoscevo così, dico la verità. Pensavo si chiamasse fluviale. Ciao Roger, io ho con la tabella della attenuazione del dB. Allora, l'RG8 per ogni attenuazione dB per la lunghezza di 30 metri di cavi coassiali americani alla frequenza di 27 MHz. Allora, l'RG8 ha un'attenuazione di 0,98 dB, ha una velocità di 0,66. Chiaramente il valore ohmico è 52, mentre invece l'RG58A, che è 53 ohm, ha una attenuazione, quindi una perdita di dB pari a, sempre in 30 metri di capo, pari a 2,2, quindi ti mangia quasi il guadagno di un'antenna, quasi. Sì, ma lì è valutato su 30 metri, io c'ho 25 metri, non 30. Cambia, sì, cambia. Comunque, come potete valutare, io da ogni parte arrivo, non ho nessun problema, che arrivi con un segnale di 9 e 10, che arrivi con un segnale di 9 non mi interessa nulla. È il tipo di capo, brother, che non mi piace. Se avessero fatto molle quello grosso, mi avrei messo quello grosso. Però morbido, come quello che si mette nelle macchine per fare impianti stereo, ecco, così mi sarebbe piaciuto. Ma infatti potevi al limite farla. No, non è quello, perché magari mettendo un 58 sentirei più bene adesso. Mettendo un 58, noi al 38 uscivi da paura, capito? Magari avevi un guadagno di un punto in più, poi relativo alla cosa. A prescindere da questo potevi al limite mettere a farla arrivare su uno strumento e dopodiché, anche se non si deve fare assolutamente, una cosa che non è saldamente non raccomandata a fare, mettere il registro dopo dallo strumento all'apparato. No. Se tu lo fai col 213 anche negli strumenti devi mettere il 213, se no ti cambia l'impedenza. No, hai ragione. Hai perfettamente ragione, però ripeto, si può fare, dai. Esito di non farlo, anzi qua c'è appunto la differenza, come ti cambia l'impedenza, su questo libro stavo guardando, se hai semplici pezzi diversi ti ricavitano un'impedenza diversa. Appaga. E vabbè, ma sono cose ricche che si sanno, dai. Niente, dovrebbero costruire un capo a misura mia, che sia morbido e grosso, perché duri molto. Ma piace a Luca, morbido e grosso. Invece a me ci piace duro e grosso. Filippo, il duro e grosso, infatti, è una trovata dalla bocca. A Fabrizio piace quello, cosa ti ha tolto la bocca a te? Poponio, la banana te la sei mangiata? No, stavo mangiando la fragola. Attenzione a non tenere mangiare i semini fra i denti. No, tranquillo, tranquillo. Allora, cosa ti combinate di bello? Mi parlando stiamo. Parlando, diciti a noi. Anche comunque col capo fino se ne possono fare di quelle cose a voglia. Faccio vedere queste che io ho fatto con le 58. È la prima volta che compro, sto facendo schiuma perché è la prima volta che compro un filo del genere, ma io ho sempre comprato i burti di quelli da 13. Posso? Vai. Allora, il discorso è quello che stai dicendo tu Gianni, è perfettamente d'accordo, sono perfettamente d'accordo con te. Il tuo discorso fila liscio, no? Se ho una buona posizione, una buona tutta eccetera eccetera, ovviamente posso fare il QSL, posso fare quello che voglio con il 4 watt dell'apparecchio, ci sei. Ma se io ho 30 metri di cavo, un esempio, ma la cosa più importante in un impianto, io posso uscire, se io qui metto, che adesso ho questa 5 ottavi e ho questa resa, se qui metto anche una Grand Plan, sicuramente esco bene da tutte le parti e faccio le mie QSL, sono d'accordo. Quello che voglio dire io, che molte volte tendi a buttare dentro 100 watt in antenna per ottenere un certo risultato, che basterebbe solamente ottimizzando l'impianto. Cosa vuol dire ottimizzando l'impianto? Mettendo un cavo di alta qualità, mettendo un'antenna con un ottimo rapporto di guadagno, posizionando in maniera che hai uno stazionario, che ne so, 1-1, 1-1 ti ce la casa, 1-1 devono essere, quindi l'antenna rende al massimo di quello che deve rendere. E se tu ci metti lì a fianco, che ne so, un'antenna con un cavo che va in dispersione, con un'antenna che non è tarata bene, eccetera, eccetera, due antenne vicine, con lo stesso apparecchio, e possiamo fare tutte le prove, ti dimostro che una magari ci sbatti 100 watt in antenna e l'altra sta uscendo con 10 watt e vedi che tutti e due arrivano con lo stesso segnale. È probabile che quella con 10 watt arriva anche più alta. Basta guardare, scusate, basta guardare il falchetto rispetto a me. Lui arriva una bomba, io devo spingere. Ma perché? Perché c'è una condizione d'antenna completamente diversa. lui è completamente libero, aperto da tutti i su a 360 gradi e quindi arriva l'impotenza. Io non ce la faccio, eppure ho un'antenna che diciamo è una turbo e allo stesso tempo pompo qualche watt in più. Lo so, ma io diciamo per quanto riguarda le stazionarie c'ho 1.1 di stazionarie e sempre avuto così e non mi sono messa lì. Il cavo io penso di aver preso le 10.48 migliori, perché ho preso quello e le 10.48. È un buon cavo quello. Sì, ma infatti va benissimo, voglio dire, per quello che va benissimo. L'unica cosa che io sto dicendo è che più mettere dei calattai e più è meglio mettere un cavo buono, perché hai meno dispersione, capito? Bisognerebbe vedere poi alla fine quanti dB hai in dispersione, quello si può fare misurando sotto, misurando sopra, cambiando cavo, misuri sopra e misuri sotto, e ti rendi subito conto di quanto stai perdendo o quanto stai guadagnando, e in base a quello ti rendi conto, sapendo che è un calcolo logaritmico, che se riesci a guadagnare 3 dB è come che stai raddoppiando già la potenza. E tu vi spiego anche perché non ho messo quello grosso, perché è troppo visibile e già ho avuto parecchi problemi per piazzare l'antenna. Se avessi messo un cavo visibile, anche se non è in facciata, mi avrebbero astonato, capito? Ho messo un cavo più fino per renderlo meno visibile, nascosto, e poi tanto è vero che l'ho fatto passare dietro il pluviale, così si diceva il pluviale, io lo chiamavo fluviale, ma da un bel tempo pensavo che si chiamasse fluviale davvero. E il fatto sta che era meglio nasconderlo, eccetera, eccetera. Quindi io non sto scherzando, vi faccio vedere gli articoli sui giornali, tutto quello che mi hanno fatto. Assolutamente, no, ti capisco perché tu immaginati che a me stanno già creando problemi, perché dicevi ma le radiazioni che emana questa antenna, ma magari persone che stanno ore con il telefonino attaccato alla testa, capito, parlando ogni giorno, riempendosi il cervello di merda e dopodiché vengono a romperti le scatole perché hai messo un'antenna, perché è molto appariscente, quindi di conseguenza li spaventa, perché dice che siamo già cosa tutto esce da quell'antenna. A proposito di malapropismi, di parole sbagliate, io ho fatto vita in cantiere, figurati, io ho sentito cose tipo la guania, appunto che la guania, ma se non c'avevo altro che libro c'era da scrivere. E da lui mi dia la birra, aspetta come la chiamavano, la Dreghe. Che è famosa, sì, la Dreghe la sbaglia nel mondo. Birra Dreghe, aspetta, cos'è l'altra parola? Ma lei diceva che sta faccio i clienti, quelli specialmente a Sartiti, lì che è un quartiere un po' popolare. Lì cazzo vi fanno crepare. Stavo dicendo, ma i supermercati avete quali sono? Quello di Sant'Amona, poi qua di casa. Allora ne abbiamo a Porto Torre, sì. Una Plataona. Poi ne abbiamo una Chiesi, una Borba, una Signori e te a Sosa. Florina se non c'è, Florina cos'è, non hai già? No, Florina non ne abbiamo. Non ne abbiamo. E abbiamo la Chiesi a Borba lì, e basta. Ma è neanche un po' utile adesso. Ah scusa, dimenticavo, ne abbiamo anche due a Stintino. Ma in tutto, ma ci sono? Non si sì. 10 secondi dopo Renaldino. Ci sono tanti sushi che ce n'è da uno che stava sempre a prendere. Adesso non lo so, Concas, Casuri. Stava sempre a prendere il supermercato. Ma ce n'è qualcuno anche che ha cambiato gestione. Invece che Sisa magari è passato alla Isa, eccetera, eccetera. Insomma, c'è stato un po' di catapulto, diciamo così. Vabbè, comunque, bene o male noi ci salviamo sempre, perché la roba da mangiare tutti la devono comprare, anche se c'è la concorrenza, si cerca sempre con la politica di prezzi potessi mettersi in riga con gli altri, o se no diciamo fare il pezzo inferiore addirittura agli altri e si riesce ad andare avanti. Barossa, avanti Fabrizio. Riprendo io e passo in, in QRT, così mi stordisco un po' sul divano, più domani mattina alle 6:10 mi squilla la sveglia. Salve, caparocce. Non ti invidio perché in questo periodo sto soffrendo di sonno, ho sempre sonno. Sì, a me lo dici, io no, non ne ho voglia, ma ormai voglio andare in pensione, ma mi ha detto che non me ne danno ancora. Travaglia, quanto ne hai ancora? Quanto ne avrò? Non lo so, ne ho fatto già 21 anni, raga, andando in pensione. Allora vado prima, io ne ho fatto già 30 di anni di servizio, più ho fatto qualche mese a Lattini, più ho lavorato vabbè, qualche cosa in nero, lui non conta. Ma insomma, la storia di servizio ce l'abbiamo quasi fatta, anche 11 anni. Io avevo 22, se ne faccio a gennaio, però io ora ti posso dire, già ne ho ancora da fare, capito? Già ne ho da fare. Sì, così sono, così più o meno ne ho fatto già così di servizio. Ma io sono giovane, quindi è normale, no? E vabbè, non so vecchio ma qui. Diciamo una cosa, che noi facciamo gli anni di lavoro e poi ci pensa a Berlusconi a aumentare gli anni di per andare in pensione, quindi famiglia Bellucci. No, non ti bacia più, che non ti bacia più. E carezza mi fa ridere Gianni, che l'ho già fatta, l'ho fatta già due o tre volte questa battuta, ogni volta mi risponde nella stessa maniera. Che ti figge, no, che stai invecchiando. No, non mi sento vecchio io. Io ho 50 anni, ma non mi sento vecchio, mi sento un bello giovane dentro anni. Anch'io mi sento un ragazzino di 22 anni, ma ne ho 42. Fabri, ci arriverai tu alla mia età, Speriamo. Ponio? Certo l'abbiamo. Un mito, buon Ponio, è andato a farsi una birra. Sarà andato sul canale di ferro. Non so se ve lo ricordate quando Pompagno ci aveva la radio privata a casa sua. Arresto, lo fai adesso, t'arresto. Trasmetteva la radio, io l'ho sentito, Il trasmettitore me lo voleva prestare. Allucinante. Lo facevo per i dintorni di casa. Sì, ma a parte che usciva con 40 watt. Usciva con 40 watt e può prestare, che è una buona estrema. Però sto dicendo, bisogna stare attenti perché con la broadcasting adesso ti arrivano e ti spazzano davvero l'anno. A produttore è vero, molte volte mi controllo. Ma tu immaginati che oltre ad andare contro il fatto che non puoi trasmettere in una frequenza broadcasting senza averla acquisita, ti arriva anche la mazzata della CIA perché stai trasmettendo musica. No. Vabbè, lui faceva tutto per gioco, era una cosa bellissima, era una cosa vigilata. Vabbè, comunque un po' tutti noi abbiamo avuto la passione, pensiamo di queste cose qua. Assolutamente, io a dire la verità me l'avevo autocostruito con un kit della trasmettitore FM broadcasting, l'avevo costruito con un kit della Else che vendeva Fusaro. Figurati. Allora anche tu già hai di quelli scienziati a tazza. E anche io quello lì ce lo devo avere ancora in garage. Il problema è che non aveva il DLL, nel senso che era transistorizzato, come toccato il transistor ci uscivi due frequenze sotto, capito? Perché raffreddava il colpo e come scaldava si spostava comunque in frequenza, lo dovevi sempre settare con la cavigna antinduttivo. Adesso li vendono, se guardi, ci sono dei trasmettitori da 7 a 15 watt, lo vendono su internet, i cinesi, sono una bomba, Comunque ci sono adesso questi trasmettitori, i torini, che sono piccolini, ma non quelli da macchina, proprio quel giro sono 7 watt, 7 dai 7 ai 15 watt. La cosa che ci sono i recettori da macchina che possono avere massimo un'uscita di 0,5 watt. La macchina ti serve perché se c'hai autoradio vecchio comunque vuoi coprire proprio l'abitacolo all'interno, quindi c'hai solamente la radio, inserisci la penna USB o altre cose su questi trasmettitorini che li hanno da nei negozi cinesi qua, ma costano una miseria, tipo 5 euro. E puoi trasmettere la musica che hai sulla pennina. Sì, ce l'ho anche io. Ah, praticamente devi sintonizzarlo sulla frequenza della radio, ce l'ho anch'io, poi si mette direttamente nella presa cinesica di quello lì. E poi ti dirò che non si sente per niente bene, è disturbato, specie se vai al quadrato, deve essere che da lì si prendono ombre di porcherie e cose, sente la radio mischiata, un casino. In macchina, l'ho messo da parte perché non era fedele, non era... Io c'ho un Alpine in macchina, ho messo quell'affare lì e peccato che non abbia la penna USB, se no è un buon stereo. Ma no, vabbè, eppure evidentemente non ne hai preso uno freccano perché funziona abbastanza bene. Ma lì ho provato un altro, lo stesso, è lo stesso però. C'è il telecomandino piccolino, è una figata come cosa, puoi girare i brani dal telecomando. No, ho visto, però è quello lì, è il telecomando un po' derecchio perché stai dietro mentre lo controlli, capito? Una volta avevamo questo amico di Gino e un altro amico nostro gli ha detto, ascolta, fammi una cassetta, allora si usavano le cassette, una cassetta di quelle con musica soft, romantica, eccetera, eccetera, no? E lui ha detto, vabbè, va per gratis, quando vado con la mia ragazza in crociera, cosa, va a mettere qualcosa sotto il fondo. E questo qui l'ha fatto lo scherzo a metà brano, gli ha gridato, beh, Monteria! Basta. Tutta la musica, tutta romantica e cose, no? E ci ha dato questo qua, cavolo, c'è un bastardo. Cosa mi ha ragazzo, ha capito tutto adesso. Grande però, dai, bellino. Musica dice che era come bella. Poi a me è proprio nel bel mezzo. Ha detto questa frase, a voce alta. Calcolate i tempi, vedete. E beh, come faccio a sapere i tempi della ragazza? Vabbè, aveva calcolato 5 minuti di lui. E dopodiché era entrato lui in secche. No, però bello scherzo, dai. Comunque, che se è andata. È andata proprio nel bel mezzo e questo qui dentro da lui. La ragazza si è un bel cazzata. Tu vuoi a chiedere queste cose, a dire che facciamo questo? Cazzo, un bel cazzata. Oh, io. Chi siamo rimasti? Contiamo, 1, 2, ecco, con Fabrizio che siamo vicini. Fabrizio ci si. Vediamo un attimo se è entrato invece Barracuda. Tanto non deve essere andato in giro stasera. Direttamente, poi siamo sentiti stasera, dice che sarebbe rimasto a casa. Io, meno male, una parte degli ospiti sono andati via e sono rimaste solamente le ragazze. Allora vabbè, non c'è problema. Se bisogno di una mano vengo. Ma puoi fare brutte figure già. Perché sono arrivato e sono abituato a cose massicce. Sì. Vabbè. A me mi hanno sempre detto che non è tanto la grandezza ma quanto saper usare. Questo non bisogna mai dirlo. Perché il discorso che fanno quelli che ce l'hanno mignon, capito? Prova a chiederlo a una donna, queste cose. Proprio una donna che lo dico. Ah, va. Vabbè, i miei dubbi. Fabrizio, il tuo parere. Non mi vanto di essere un superdotto, ma mi chiamavano Semiascia. Via, via. Come ho detto, è lungo che tocchi, è grosso che duri, ma duro che duri. Non è il caldo. Vabbè, scherzo naturalmente, no? Io penso, voi sapete il mio parere, io penso che non, a parte il fatto di come sia io, come non sia io, penso che quando uno ha la misura giusta, è quella, va bene, interessante saperlo usare. Sicuramente. Anche se c'hai, ripeto, sei super dotato, dopodiché tu li due secondi, credo che... Oppure sbatti buco, lo metti nell'ombelico, sicuramente qualche dubbio glielo fai venire alla donna, a prescindere da questo. Parliamo con uno che se ne intende. Pomponio. In avanti, Pomponio. Magari. Luca? Però una volta ti faccio un balù. Che figa, sei tu una tua figa. Minchia. La Luca Morsica. Sono buono, si arriva la tempora. Madonna. Di dove? Allora già. Ci sono? Un attimo. Mia bocca, cazzo. Buona, buona, buona, buona. Se lì è buona. E di? Aspetta, lo dico. Cagliari. Ultimo giorno a Cagliari, Amanda. Ma che troia, eh. No, trattenti. Sì, quella che ti invitano. Ultimo giorno a Cagliari. Amanda X 327 66 10 594. Attenzione, non sia Amanda Knox, se così te ne taglia il diesel insieme al sollecito. Quella è la Bubitis. Amanda Bubitis, sì, era quella che ne aveva tracciata a Morsi, gliel'aveva tracciata, oh no, gliel'aveva tagliata, l'aveva buttata alla finestra. Bubitis, c'è il tombino, aiuta. Si chiamava Lorena Bubit, non Amanda. Amanda, gli stanno facendo la festa adesso in appello. Domani dovrebbero dire la sentenza qua. Che penso io che se non sono loro, poveracci. Se sono loro, ok, giusto che paghino, ma se non sono loro, si incolpano di una cosa che non hanno fatto. Ma se non sono stati loro, come mai hanno incolpato Lumumba? E che ne so. E così quella di cosa, tu ne capisci qualche cosa di quello di... come cacchio si chiama, adesso me lo sono anche dimenticato, di Franzoni, della Maria Franzoni. La Franzoni è un'altra che ha avuto un attimino un addoppiamento di personalità e lei crede non averlo fatto, però l'ha fatto e come, perché ci sono queste personalità borderline che di colpo così ci sono delle condizioni per cui si scatenano un altro, cioè, un istinto omicida e compiono questi atti e poi se ne dimenticano completamente. Aspetta, sindrome bipolare. Esatto, come le batterie. Beh certo, lo sindrome bipolare è un sdoppiamento del carattere che praticamente ci sono dei momenti che sei buonissimo con le persone, ci sono dei momenti che ci escludi. E viene trattato col licchio, che è uno dei calmanti più devastanti di questo mondo. Possono passare anche a farsi del male e a far del male anche agli altri. Poi quando prendi il licchio sei stato anche alla corrente e duri una giornata. È come le batterie. Esatto, non c'è bisogno di scaricarti, non hai effetto memoria. Paga. Aia. Sappiamo queste cose, non è che... quando tu devi sapere che quando si fa servizio ambulanza i dottori ci fanno delle lezioni anche per potersi comportare con certi tipi di persone, ci possono capitare dementi, gente esaurita, gente che una volta proprio lì alla casetta del Canada ha fatto un intervento allucinante, questa tipa che nel mese di agosto, 14 di agosto, a mezzanotte a mezza aveva il televisore tutto volume, radio tutto volume, stereo tutto volume, i vicini di casa hanno chiamato i carabinieri non hanno chiamato a noi. però loro non si sono esposti, dice, noi non entriamo, entrate prima voi, prendiamo le cinghie per le gare, perché se la camicia è fatta non si usa più, usiamo le cinghie. Praticamente la sorella ci ha aperto la porta e come ci ha visto, non mi condate, una tipo un bel grasso, tutta quanta sudata, cazzo, le finestre tutte chiuse, in piano, si immagina, tutta sudata, con i capelli che sembravano oleosi, da quanto erano bagnati, tutta nuda sotto, con questa vestaglia che si appiccicava al corpo, cazzo qua. Siamo andati per prendere la casa dove mettere le cinghie e non ce la facevano a legarla perché era ben grossa. Abbiamo dovuto prendere un altro paio di cinghie che si attaccano una collata per legarla. L'abbiamo presa, l'abbiamo caricata in ambulanza, tutto il via gli diceva tanto non mi conto. Poi l'abbiamo portata a porto soccorso e ci ha messo a dire al dottore che era buono. Sì, non vorrà che te portata, no? A rosa, per carità. Faceva il ribletto, guarda che io avevo i guanti, cazzo, era tutta quanta bagnata, ti immaginate, una persona tutta nuda e con la sottoveste che gli si attaccava proprio al corpo, dal sudore, tutta bagnata, cazzo, cercando di convincerla prima di venire e girava attorno al tavolo. Cazzo, ho visto studio e guarda, a me per poco mi ha coltella una. Insomma, per carità. Bello fare così il volontariato, ancora prima linea. Cazzo, una volta siamo andati a prendere questa persona con la cirrosi epatica evidente, è già stato operato e tutto con una pancia enorme e con il taglio che gli partiva quasi dal petto sino a tutta la pancia. E quelli vivevano in due, lui è un amico. Ha detto porta all'ospedale perché ha dolori, lasciatelo lì. Abbiamo capito che lui se la voleva sbarazzare, non voleva più in casa perché stava male, no? Portiamo all'ospedale, fanno degli antidolorifici, ho detto cosa li facciamo, vedi com'è. Facciamo degli antidolorifici, hanno fatto un flebo e cose, poi ci hanno detto riportarlo a casa. Quando l'ho riportato quello lì, non lo voleva. Dice no, portatevelo via che io qui non lo voglio. Calma, io l'ho preso da qua e qua lo porto, dove abbiamo detto riportarlo. Poi tu decidi cosa. L'ho portato a discutere, l'abbiamo messo a letto e coso, quando me ne stavo andando, questa mia collega fa attento, cazzo, questo qui col coltello, cazzo, mi sta per accoltellare. D'accordo, beh, come hai fatto? Bloccato, cazzo, ho bloccato il polso, e ho girato il braccio, ho tutto il coltello, e poi il coltello ho preso, cazzo, gli ho tirato dopo che me ne sono sceso dalle scale, che poteva fare cose per andarla. E l'ho buttato dalla scala, ma è stato detto questo per non denunciarti, stolto, ma sono andato. Questo dove è successo? Questa sei in mezzo. Qui alla mamma. Zucca. Che uiaia, come gli occhi, cazzo. C'è il freschetto anche? Mi sa che tu hai trovato di tira. Sto sempre dormendo in mutande. Però questa magliettina, c'è il freschetto alla notte, altro che proietto, fatto il gioco. Io sono un bel stacco, non ho fatto niente oggi, no? Sono stanco morto. Questo però adesso c'è sempre di notte. Di notte. Vabbè, normale. Assolutamente. E non deve essere, se per fare il volontariato non deve essere, soprattutto con l'ambulanza che devi tutto. Tra l'altro devi sapere conservare i segreti, devi avere sangue freddo, è una cosa un po' particolare sicuramente. Una volta ce l'ho chiamato il viale Umberto, c'è questo tipo che è caduto, ha sbattuto la testa a terra, ma chi cacchio immaginava che trovate un delinquente? Siamo arrivati lì, l'abbiamo medicato, poi l'abbiamo caricato, abbiamo visto che era tipo di sensi, abbiamo cercato di rianimarlo, quando era un po' tranquillo. Stavamo caricando in ambulanza e sesso, il mio collega fa stop, ci blocchiamo tutti perché la parola d'ordine siamo bloccati e gli ha sfilato una pistola da dietro, una pistola dietro la tasca e ha detto ma lei cosa fa? Poliziotto che cosa? Sì, sono poliziotto, Vabbè, comunque per il momento la tengo io in consegna, mi faccia vedere la tessera, gli ha detto la teniamola in consegna, la pistola, gli ha messo la sicura. Lui ha detto, vabbè, non ce l'ho qua la tessera, non so che cosa prende, questo mio collega è telefonato al 113, sono arrivate tre pattuglie immediatamente. La pistola l'abbiamo consegnata a loro, sono saliti due poliziotti sulla ambulanza e intanto come l'hanno indicato a pronto soccorso poi l'hanno arrestata perché era una pistola, con la cosa a braccio, se l'ha accorto il mio collega che era rimasto. Pagava. Meno male che poi non si è rifatto, non se l'è presa il tuo collega. Poi, non se ne ricordava nemmeno, era gutto di pipa. Figurati. Si è andato se non ho preso la pistolettante allora? Sono pericolo, entro i due piccoloni. L'altra volta ci chiamate, c'erano tanti carabinieri, poi lì hanno fatto le carone loro perché ci hanno chiamato e poi se ne sono andati. È successa una risa praticamente a Vizio. Non ci hanno detto né dove era la caccia, ma c'è il Vizio. Noi siamo dovuti andare a cercare, c'è come tipo campane, ville e cose. Siamo arrivati lì e ho visto un signore che ci ha fatto segno per la ridente. Io ho visto questo signore che stava male in terra e ci hanno detto che faceva un infarto, questo e quell'altro. Siamo arrivati lì e poi lui non era un infarto, ma era una crisi nervosa. Gli ho detto alla signora, non si preoccupi che cosa è successo. E poi la signora mi ha chiamato a parte e mi ha detto, se abbiamo un figlio che è tossico, ci ha minacciato che se non gli davamo i soldi ci ammazzava, questo e quell'altro. Insomma c'è stata una discussione col padre, lui si è messo a pensare il padre. E allora abbiamo chiamato il carabinieri. E il padre era colpa tua, se l'hanno arrestato, questo e quell'altro, stava una colpa uno con l'altro perché aveva arrestato il figlio, non perché cazzo ha rapicchiato rubava. Vabbè, fatto sta che il padre era. Non voleva salire sull'ambulanza, cosa stava ben male, ma aveva una crisi isterica e cosa, si stava tanto contorcendo, si stava bloccando gli altri, cosa. Fatto sta che cioè, l'abbiamo convinto, l'abbiamo portato in ambulanza e anche questo qui aveva il coltello in tasca, se ne ha accorta la mia collega e abbiamo sfilato, vi ha ammazzato tutti, ha detto, come hai detto così, si sente la mia collega, gli ha visto il coltello e gli ha sfilato la tasca. E quello abbiamo voluto bene perché abbiamo anche parenti in corte invece che al posto di polizia. Ma ieri, quando ieri sono andato a vedere una partita di tennis lì dove avete la sede voi, ma dove risulta essere, dove ci sono gli spogliatoi? Esatto, sono tutti in fila, praticamente c'è la sala radio dove parliamo con la radio e cose, che di solito siamo sempre lì, poi ci sono gli uffici e i dormitori nostri. Comunque se abbiamo ammazzato cioè un po' sacrificati, dovreste avere un posto più ampio. Lo so, ma tanto lì devi stare dentro la sede perché quando ricevi le chiamate devi partire, quindi stai sempre nella sala operativa, o stai in ufficio o stai in sala operativa, due sono le cose. Caffè Roger, Luca, vieni avanti, sai perché ti fanno male gli occhi? Sono sempre attaccato a quel computer, però sei. Mi vedi uno che ne sa. Buonasera, Giuseppe, sei vicino. No, perché non mi posso attaccare, cazzo, lui sono due tiri al poker e poi basta. Sono un po' abbioccato. Sì. Ciao, sapevo di nulla che c'erano i fuochi artifici a Ughero. No, ho capito. Sapevo di nulla che a Ughero c'erano i fuochi artifici. Ma negativo. Allora, ce ne siamo persi. Vabbè, pazienza. C'è a Domo, sì. C'è a Domo, sì. Sì, sono a casa. Appagato. Aiutaci, vestiamo, ce ne usciamo. Per me non ce n'è problema, già. Per me lo sai che non ce n'è problema. Quanto stavo dicendo, a parte gli scherzi. Ma stasera davvero senza... con molto rispetto. Io. Ma se lo stesso ti funziona, con molto rispetto. No, no, No, stavo andando in folle, hai capito? Non ce ne avevo il fare, però ero in folle molto per spento. E non consumare benzina. Non vedi, Grog? Non aveva il motore spento, cioè ce l'aveva in folle, non a motore spento. No, no, motore spento, io mi ci ho fatto tutta la buribudia, motore spento, sino a Sant'Orsola. E poi, basta, poi sono ritornato a casa, con la macchina accesa, però, direttamente. Ma scusa, ti funzionavano i freni lo stesso? A fa? Boh, vabbè. Funziona anche se quando spegni la macchina, funziona la prima frenata, dopodiché la seconda già non si arriva. Vabbè, ma stava andando piano, hai capito, perché trovo mio figlio. No, ma no, stavo facendo un po', mettevo in folle, un po' un motore spento, hai capito, però ero sempre in marcia, hai capito. Quando devo entrare il signor Antonello Paracula stasera, ovvero? Mi ha detto barbacola, attenzione una barbacola che è il potenziale, un barbacola non c'è. E quello deve essere che sta girando dall'altra parte del letto, altro che barbacola, quello è barballetto. Ma a me stai dicendo? Dimmi! Padre del diavolo. Cortesia, un attimo di pazienza, dai, io detto siamo alle 3, se anche alle 4 rimango in piedi, continuate. No, ti mando una cosa, mi sto ascoltando, non ti preoccupare, io sono sempre di parola. Stavo scherzando, Antonio, io, lo sai, stavo dicendo solo una battuta e basta. Pensavo che ti eri abbicchiato. Tranquillo. Abbicchiato. Però mi sono ricordato a proposito del fatto che mi parola che mi sono montato una cena da solo, ma non parli. Maestro di amore, vai, ancora la macchina non mi funziona. Però potevi fare almeno, quantomeno per il... l'hai fatto. No, se posso dire Marco, sa che sta bene perché tu fai lo stesso, quindi... Aspetta, io arrivo in ritardo, ma il conto che non è arrivato. Se l'avevo appuntamento per al quale non ci è venuto, non si è venuto né in ritardo né prima. No, pulizia, la prima volta che mi hai invitato, eravate con Giuseppe, io sono arrivato in ritardo, tanto è vero che vi ho detto anche che fare era finito. Vabbè, io guardo, quando do l'appuntamento sono sempre in anticipo. Sempre che non succeda qualche imprevisto, però solitamente è così, arrivo anche 10 minuti in anticipo. Che non mi piace né aspettare né fare aspettare. Lo sai che cos'è? Io ho talmente tanti appuntamenti durante la giornata, ma non lo dico per... E poi alla fine slittano come slitta uno per poterli rispettare tutti, alla fine all'ultimo appuntamento ho accumulato un'ora di ritardo. La persona super impegnata. No, la maggior parte non è che sono robe di lavoro, anzi sono amici, sono persone conoscenti. Sei gettonato, dai. Non lo puoi dire forte. Infatti mettimi una canzone. Uia uia. Allora ti chiudo. Uia, uia, per carità, per carità. Va. No, niente, è una giornata parola, oggi credo che proprio non c'è voglia di fare niente. Proprio 0000. 07 con il ragazzino, dai, poi era una bella giornata, oggi l'avrei portata al mare. No, ma ce l'avevo qua a casa, qua stavo giocando dei giochi che gli ho dati, li ho procurato e stava giocando e mentre c'era la nonna che lo teneva d'occhio e io ero, mi sono fatto una piccola appenichella, hai capito? Roger, ma tua madre è giovane, quanti anni ha? Ha già 76 anni. Vabbè, al giorno d'oggi si dice giovane, fino a 90 sono anziani, poi iniziano a essere vecchi. Vabbè, fa il conto del 34. Ma diciamo che è anzianotta, dai. Sì, però, anzianotta, starotta, già, già la sua cosa già sarà... come si dice, se la gestisce, capito? La sua vita se la gestisce, guida, esce con la macchina, va in giro, va con le amiche e compagnia bella. Parole. Ma quando avevate il bar in gestione, ma c'era anche lì? K. Non la ricordo, me la ricordo, parlo di 15 anni fa, 20 anni fa è possibile. K. Me la ricordo. Un po' più giovane, però già te la ricordi tanto. Se non sbaglio, adesso non vorrei sbagliare, è possibile che c'è già la cassa. Lei che adesso tanto? La cassa Savonico, il quale? No, anche lì, anche mia madre già. Io non me lo ricordo, lui non la verità, non mi ricordo di tuo padre. Di tuo padre è come se fosse quella lavorata. Mi dico, lo stesso, ti ricordo, lo stesso. Non mi viene di trovare, ma che se la vedo più di Dio, aspetta un attimo, ma quello della cosa, della piccola, lo conosci? Il padrone dell'edicola, sì che lo conosco. Però adesso balla mi hanno detto e balla sto dicendo, quindi sono pronto a ritirarla se non è vera. Ma è vero che c'è una specie di casa di produzione cinematografica. Certo. Allora sì, adesso non diciamo di che cosa, però già. Allora è vero quello che mi hanno detto, dai. Posso anche confermare io che lui fa queste cose, queste videocassette a luce rossa e compagnia bella. I pornati. Sembra Martin Feldman, te lo ricordi Martin Feldman? Cappa. Dove uccide? Già, yeah. E vabbè che quella famiglia è tutta strana, non è che ce ne sia uno sano, Giro. Ma riesci a vendere, cioè ne faccio oltre. Beh, tra quello, con lo stipendio dell'edicola e questa cosa che c'è lui delle videocassette, riesce a tirare avanti con calma. C'è anche un appartamento suo di fronte al padre, si è comprato un appartamento lì e dunque traina. E abita lì, di fronte, capito? Lì gira i film così. Beh? Lì gira i film. Beh, fate il conto, cazzo c'ha una macchina, un Audi 4, l'ultima che è uscita adesso, e sarà cambiata da poco. Come si chiama la casa di produzione? Non te lo so dire, Antonio, non lo so, proprio quello, il nome non lo so. Comunque, il soldo, capito, se lo sa fare. Antonello Barracuda. E poi queste persone fanno i soldi grazie alle persone come Luca. Avanti Luca. Sì, sì. Poi dicevi che fanno male gli occhi. Un po' il computer, un po' si tocca, una vergogna, voglia. Carità, per carità. Ti sento molto sveglio stasera. Molto sveglio? Sì. Già, vabbè che diciamo un riposino di stasera ma ha tirato un po' su, capito? Poi il fatto che non è lavorato, vuol dire molto. Ma già si riprende martedì a lavorare. Io lunedì. Che lunedì? Lunedì noi lavoriamo mezza giornata, ma il lunedì per me è bello pieno. Io so tu lavori dalle 8, 8 e mezzo, all'una, l'una e mezza vai. Per me è l'una e mezza. Cappa di Rogero. Attenzione Antonello, Barracuda, se ci sei fatti un colpo. Non lo so ziccare, che siamo un po' nervosi tra sé. Cappa. Giuseppe, te la lascia. Io metti l'abito che stiamo andando in tournée. Dove vuoi andare già? Boh. Andiamo a qualche locale. Boh, ne vedi un po'. Per me io ci metto 5 minuti a vestirmi, non vuol dire due volte, io sono sotto a casa tua. Al calo, non ci mi metto la minigonna e vado a battere. E io vengo a ritirare di acqua. Ma mi raccomando, è minimo 20 clienti. E domani, storia. Ma se con Riccardo si inizia. Riccardo, insomma, tra gli ma io quando parlo alla baracchina sono sempre così, sono sempre sdraiato perché mi riposo nel momento, per me è un relax, l'uno e l'altro. Esatto, non c'è problema. Avanti, Antonio, grotte. Trappaglieri, come si dice, siamo andati con degli amici a fare la cena, eravamo a cena, dopodiché siamo andati a fare quello che è stato definito il Butan Tour. E vicino a un distributore, non dico dove, c'è un transessuale, che tra l'altro è una persona che studia all'università, che non dico dove. Morale, mi hanno detto anche che questa qua ha un po' di malattia addosso. Sta sotto quell'albero. Sotto quell'albero no, non sta esattamente sotto quell'albero, rimane seduta. Se tu stai dicendo quello che c'è nella strada di Alghero, praticamente prima dell'entrata del cimitero lì, ce n'era uno una volta che ho fatto uno scherzo a un amico, gli ho detto dai, fischia questa tipa che è buona, lui ha preso la fischiata e ciao caro, e ha detto vestito di bianco, sembrava una donna qui, no? Non so se lo sapevo. Tu sei parlare di Batman. Batman, chi dovevo che c'è sulla destra, prima della strada secondaria, di quella che c'è dietro? E buio, io non me ne intendo, cioè una volta che successe e basta, non è che vado, però non lo so se lo chiamano Batman, come lo chiamo, però questa che mi metto, sei un bastardo. Ma non si pare un pipistrello. Però no, non è che me ne intendo, ma è fresca, ricordo ieri, capito? E comunque ne stanno basicando abbastanza in mezzo a queste. Io l'unica volta che praticamente ho fatto una cazzata, che praticamente ho fatto finta di fermarmi, sono venute tutte quante le negre, tutte quante vicine alla macchina, come sono avvicinate, accelerate, non la prendi lì, ma non bestemmiare. Una greca, quelle che prendono di meno sono le cinesi, sono 5 euro poi. Formato. Ha già provato già. Io dico la verità, non andrei mai con una di quelle, anche se mi pagassero loro a me. Se ti dessero 5 euro. No, anche se mi pagassero loro, non ci andrei. Perché uno perché per morale mia mi fanno un po' di pena. Non riuscirei mai a approfittare di una persona che è quasi costretta a fare un lavoro del genere. E poi, secondo luogo, non ritengo che abbia questo bisogno. Vabbè. Io non entro in merito e non giudico nessuno, anche perché è il lavoro più antico del mondo, quindi assolutamente. Ognuno di noi ha il diritto di divertirsi nel momento in cui uno non la pretende nessuno e lo vuole fare per la sua legittima scelta, è giusto che lo faccia. Però è vero, io poi per come sono paranoico per le malattie assolutamente non ci andrei mai, più che per la morale e per la paura. Cosa ti volevo dire? Non sono costretto, li prendono solo il passaporto, le lo sequestrano, le picchiano, per quello lì darla a contatto. Allora, io una volta sono andato a una festa che fa la chiesa, ha fatto la chiesa del Sacro Cuore. Io siccome abitavo a Sacro Cuore prima e conosco un po' di gente, ecco, adesso non me l'hanno detto, guarda Gianni che c'è, è una bella festa stasera. Ci sono tutti i tipi di musica, fatta da senegalesi, da portoricani, indiani, eccetera, eccetera. No, sono tutti questa comunità di che propongono il loro tipo di musica. Sono andato a vederlo e tra questi c'era questa ragazza che cantava. E ha voluto raccontare la sua storia. Ha raccontato che praticamente lì è stata ingannata, è stata portata qua con la scusa di dare un lavoro onesto in una casa, e poi questo padrone si faceva le pulizie in questa casa, però il tipo ne approfittava, eccetera eccetera, e poi dice che ha trovato questa persona, che ha conosciuto questa persona, che è riuscita a dice che lo la picchiava, la costringeva, insomma le faceva fare tutto quello che voleva lui, insomma lui si sentiva solo una schiava sua e basta. Poi ha conosciuto questa persona di colore che si era sposata e che l'ha tolta da questo casino, gli ha dato un lavoro eccetera eccetera, perché stava lavorando, gli ha dato un lavoro e dice che da questo casino è riuscito a uscire per fortuna, perché dice che lei non ha mai avuto, ha avuto sempre paura di questa persona, non vuole dire ancora chi è. Insomma, loro sono legati a forti credenze, tipo molto spesso non hanno bisogno neanche del passaporto, per ritirare il passaporto gli tagliano i peli del pube e gli dicono che se non lo vanno a battere le fanno diventare steli tramite mancunque, sono molto superstiziose, capito? Appaga. Vabbè, comunque sono come io non sono mandato in un live, per dire, non è una cosa che a me si è rivolto scalzata, Giuseppe, ma lui lo sa benissimo come la penso io. Giuseppe lo stesso credo che non ci sia mai andato. Dove? Un live. Negativo. Mai andato, vero? No. Però me. Tanto ci è passato tu, quanto ci è passato, se ci è passato dentro e fuori. Mi autorizzi, posso dire una cosa? Dimmi. Quello che la posso dire? Dimmi, dilla, dilla, dilla, non ci sono problemi. Prima di andare, io sono andato due volte a night, due volte, e questa night, le due volte mi sono andato proprio mi ha pillato, perché non ci sono andato. Ed era il blu sax, ma ti parlo di, saranno 10 anni fa, 10-12 anni fa. Morale, noto questa persona che era in fondo alla saletta, ma con le braccia aperte così, in fondo delle ragazze si passavano, si strusciavano addosso, e ho notato una cosa di strano, lo chiamavano per nome, mi ha detto, boh, questo deve essere un affezionato, ma cazzo girava, gliene sono state 3 o 4 solamente per lui. Chi era Giuseppe? L'ho detto. Ah, ecco. Il padrone del locale sembrava, io ho detto, boh, questo lo conosco per nome, deve essere proprio il padrone del locale. Tu quanto è passato, cazzo, guarda, la voce della verità, cazzo, già. Guarda, non vuoi far sapere una cosa, cazzo, mi, cazzo. Non ho detto niente, sto solamente champagne andando, venendo, boh, e giù vado ubriacore. Questa è la E tu lo sai, prima me lo potevo permettere, adesso mise, capito? Non ce n'è, adesso non ce n'è. Vabbè, era una notte che mi ero trovato con uno spuntino e mi avevano portato degli amici. Entriamo in questo locale e allora io conoscevo i due padroni, che poi, che uno era, che lì praticava molto Torre Baracocco, che era uno dei soci, e un altro, che era un altro che aveva preso un locale a sorso. Vabbè, allora, entriamo in questo locale, quello lì, come mi hanno visto, ecco mia Giuseppe, mia Giuseppe, mia Giuseppe, mia Giuseppe, allora, mi portano in quel, dice c'è una persona che ti vuole conoscere, vabbè, allora, conosciamo, non ci sono problemi. Come vado a sedermi in poltrona, cazzo? E il resto te l'ha raccontato Antonio. Se lo sono ingrata. Se guarda, ma la notte, cazzo, ero cotto, ma cotto, già lo voglio, avevo una cottura, cazzo, che non mi reggevo in piedi, già, non mi reggevo in piedi. E io, cazzo, ero seduto in questa poltrona, ma per quanto, cazzo, ce la facevo alzarmi? E queste qua, cazzo, ne approfittavano perché ero perso, cotto perso. E per quello che lui ha raccontato che mi strusciavano, tutto quanto. Tanto io ormai non avrei combinato niente. Poi, mi sentirei un po' in imbarazzo. Bravo, non chiederti più. Ma ne avrà avuto, ti ripeto, il locale era vuoto perché erano tutti lì. Tanto bastardo. E vabbè, erano tempi passati che si poteva fare, adesso non si possono più fare perché non c'è più niente. Un cacciatore inglese famoso disse che nella sua vita tutti i soldi li aveva spesi, o parte o buona parte dei soldi li aveva spesi in donne e roba da bere, tutto il resto l'aveva buttato, capito? Sono i soldi spedimento qui. E vabbè, lascia perdere. Ma perché i soldi io me ne sono giocati così alla cazzo di cane, quanto me ne sono giocati veramente, perché se io quei soldi là me ne avrei conservati a quest'ora non avrei fatto questa fine, capito? Ma avrei aperto un locale a conto mio e tutto quanto. Questo è un momento dove c'era una risposta sicuramente, alla fine quando siamo giunti così di nuovo. Bisogna essere, bisogna lottare, Giuseppe, il mio motto è lottare dura senza paura. Lo so, però purtroppo e tanta gente mi avrebbe male, te l'ha consigliato, dice Giuseppe, mettiti soldi da parte perché poi tu quando qualcuno se ne andrà, vedrai che ti troverai nella merda, è male, non ho fatto non la diretta, certo che mi sono trovato veramente nella merda io. E tu non sei andato a cagare, vero? Penso che tu sei andato a cagare. Dimmi a tu. Per pensare anche in maniera diversa, che hai incontrato un pericentaggio. Infatti, se lo giuri tu io, non sei mai da cagare, te ne posso uccidere. Veramente, vabbè, giustamente. Ma non hai suo occhio e tutto quanto perché sapevo chi era, chi ero, e dice tanto quello lì che soldi ce li ha e non gliene ha potenuta, tanto c'è il cazzo del bar della stazione e può fare quello che gli pare piace, ma non è così. Io un giorno ho sentito al baracchino questo milanese che era qua e stava chiedendo un posto dove poter andare a mangiare, che doveva mangiare qualche cosa e non sapeva, poi dice sono anche solo, ha detto ascolta facciamo una cosa, ci conosciamo e andiamo insieme a mangiare, tra l'altro la cena l'ho pagata io, ed era una persona che aveva soldi, praticamente era uno che aveva una fabbrica di prodotti per auto. E lui mi ha detto questo, io grazie a Dio a me non mi manca nulla, c'è una villona, c'ho barca, c'ho questo, c'ho l'altro, però ho abituato i miei figli che un giorno mangiamo la colazione con biscotti e un giorno con pane duro, perché non si sa mai nella vita ciò che può succedere, si può ribaltare tutta la situazione e anche a quello si devono abituare. Sicuramente, è meglio avere esperienze anche di questo tipo, cioè averle già avute, perché se torno indietro, se malavoratamente ti capita qualcosa e perdi il patrimonio, c'è gente che si ammazza, invece c'è gente che sopravvive e si mette nella condizione di dire vabbè, oggi mi tocca mangiare pane secco, fino a ieri ho mangiato caviale, adesso mangio pane secco e domani lo mangerò caviale. E poi a che così voleva pagare la cena lui, ho detto no, qua se salvene noi siamo così. Quando viene un ospite paghiamo lui, quando noi veniamo lì pagate voi, ok? Va bene, ma non sta bene, io sono una persona che ha soldi, questo e quell'altro, non c'è bisogno, ho detto vabbè, io voglio pagare lui, glielo paga pure io davvero. Vediamo se è rientrato Barracuda, un griceccio, un attimino di quel Rix per me. Quello che ho notato è che quelli di fuori, anche se hanno i soldi, non ti fanno lottare niente. Invece qua se c'è qualcuno che ha soldi ti fa sentire un verbo se non ne hai. Sono intelligenti comunque quelli là, perché sennò cosa vuol dire avere il fisco alle carte? No, non è per quello, è un modo di pensare, perché è un diverso modo di fare, di pensare. Sono persone molto più sensibili, non lo so. rispondere domande in attesa, sono una percutiata a picco. Vai, cosa si è uscite? Poi questo è il periodo, mi c'è un virus in giro, io ti vediamo all'infanza, ti vado di gripa. Beh, e adesso mi sono andato a bermi un bicchiere di Coca-Cola. Adesso mi sono 12:25. Se che presto, noi siamo già a letto. Non mi chiamato, cazzo, non si è passato, boh. Già, e cosa cazzo dovevo fare? E tanto sapevo che, lo sai che a me non mi piace fare quella cosa, che se non c'ho qualcosa in tasca, hai capito già? Io vabbè, la scienza. No, faccio, se sapevamo cazzo di questi fuochi artifici prima, siamo a Canghiera. Ma... E poi a trovare parcheggio, cazzo, nuovamente, cazzo, un casino ci sarà stato. No, adesso i turisti non ci sono più, non è più come prima. Comunque, secondo me sbaglierò di tutto a fare fuochi artifici, quali turisti se ne sono già andati. Che senso ha, bubu? E lì c'è una mentalità così, capito, fare l'ultimo giorno di settembre, perché dice che il sindaco, la madre del sindaco compie gli anni il giorno l'ultimo giorno di settembre, il 28 o 29, e fa lì quello del coso là. Fanno i fuochi per quello. Non lo sapevo. Ecco, io sono da anni che così, da quando ho fatto gli anni lì, e lo sapevo già, per far contenta la madre, ha organizzato di far fare i fuochi il giorno del 28-29 settembre, quando la gente se n'è andata. Ma che cose strane! Il fuoco artificio lo fai come attrazione per i turisti, non lo fai per la gente del posto che ne vede chissà qua. Chi si blattamora, chi si castressato, quelli di qua, quelli di là, quelli di Usini. Faccio quelli li hanno fatti a Usini. Ma vuoi sai che sia il concerto dei cosi, dei nomadi? Alla fine del concerto se ne stavano tutti andando, cazzo, fanno questi fuochi d'artificio all'improvviso, ma belli, mentre la gente se ne andava. Già. Fanno un po', hanno fatto un po' come i sussinti, no? Che fanno i fuochi d'artificio di giorno per non farli vedere ai senaresi. Ehi, se potessero metterebbe un muro. Sì, capito. Ma tu non lascia la barzelletta di Gesù 5 che trova questa, tira un calcio a questa cosa, la bla bla bla, c'è questo rumore, si guarda, guarda cos'è, ed è la lampada di Aladino, esce fuori un genio e dice, esprimi il desiderio al suo 5, gli fa, esprimi il desiderio, però ricordati che tutti i desideri che esprimi saranno raddoppiati per il senovese. Allora se io vi domando una Ferrari, due Ferrari allo senovese, sì. Se io vi domando 200.000 euro, sono 400 per il senovese, sì. Allora vendi una cosa, che vendi meno luci. Guardate. Non lo sai quella la barzelletta di Gesù 5 che camminava con i bicicletti in interrogato e compare l'altro, ma come ti mai compava quindi sempre i bicicletti in interrogato invece che nel luci? Tu dici non sono bicicletti, no? Chi si sa pannelli solari? E dice, ma va, si vede che sono bicicletti, va, si vede, eccomi, ti poni la mano sotto, ti fa mettere la mano vicino al pisello, lo ti fa, se te lo pisello fuori e lo piscia, e fa bella va grata. Grazie, non ha compreso. Bene. Io adesso deve essere smarrito. Oia. Peppino. Giannino. Così in box sono a petto nudo e proprio in mutandine e anch'io sono in mutandine a petto nudo tranquillo, caldo e fuori dalla veranda. bucato. Mamma mia, se fosse stato Falcone guai. Sai, fammi sentire bene con quelle calze. Oddio. E dove sta te vai? Sto telefonando Antonello. Oh, che strano. È scomparso di colpo. Luca. Lucrezia. Questi sono tre parti che abbiamo sto casa di Luca, risolviamo il clax, lo sincero. Cazzo vero. Bisogna facciare la lingua tutti, si cudri di vangarli a una qualche taniera di Eva. Per carità, per carità. La verità, c'è avevo intenzione di chiamarti, poi c'avevo questa stanchezza, cazzo, boh, è una cosa allucinante, questo periodo ho una stanchezza, stai dormendo poco? Di notte dormo poco, ma di giorno non riesco a dormire la notte, cazzo. Poi stanotte stava male mia moglie, quindi era con un raffreddore allucinante, stava sempre, io non riuscivo a respirare, cazzo. Mi sono dovuto alzare a portargli una pastiglia perché non ce la faceva manco a muoversi. Influenza già. Ho preso tutta dolori e con questo raffreddore, ma ha dato una pastiglia e subito si è ripresa. Stamattina stava già meglio. Hai già pastiglia già? Come per l'influenza, non ricordo come si chiama. Sono per l'influenza, c'è scritto per l'influenza e raffreddore. Ho capito cosa, aspetta, antigrip. No, non è antigrip. Non mi viene, mi ricordo che è dottore lo sa, non mi viene il nome adesso. Rosino? E io che credo che sia andato sotto le lenzuola, ci ha abbandonato. Zaffa. Adesso ti leggiamo lei tu. Oh. Certo, dici cosa facciamo? Dimmi tu cosa vuoi. Se vuoi uscire, usciamo, per me non ce n'è problema già. Io ho visto, sto andando a prenderti da. Dammi da 5 minuti mi sto perdendo, dai. Vabbè, ci sentiamo, buonanotte. Buonanotte. Ciao. Giù. Ascolti. Sì. Ciao. Ciao già. Vabbè. Cosa fare in fase di allestimento? A poi lunedì ci passano le. Ok. Vabbè. Ci sentiamo, ciao. Ciao.